Adesso abbiamo un po' di tempo per la discussione, pregherei i presenti di intervenire sulle tre relazioni che abbiamo sentito questo pomeriggio. Professor Leanza. Sì. Ma puoi venire anche qui, si sente meglio. Prima non c'era il microfono, c'è il pubblico così, alto, in modo che poteva sovrastare tutti quanti e la voce arrivava più direttamente. Un intervento duplice sulla bella relazione del professor Duval. La prima è il primo, non è un quesito, ma è una semplice considerazione che io faccio, sulla quale vorrei comunque ugualmente il suo parere. Mentre la seconda è una questione vera e propria. Allora, a pagina 10 della traduzione italiana, laddove si parla di Tertulliano, Cipriano e Lattanzio, che Girolamo cita come scrittori, come esegeti africani. E qui non è tanto importante il fatto che Lattanzio, cioè non è tanto strano il fatto che Girolamo citi Lattanzio non avendo egli affatto scritto in Africa, ma la cosa che mi sorprende è che citi Lattanzio come esegeta, già che Lattanzio non solo non interpreta mai la scrittura, ma addirittura la cita pochissimo. È noto che Lattanzio, il classicista ciceroniano Lattanzio, cita più Cicerone che Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Lucrezio, molto più che la Sacra Scrittura. Come mai qui Girolamo può cita Lattanzio come esegeta? Questo che mi sembra strano. Il secondo, o è una semplice constatazione, probabilmente c'è poco da dire su questo, però strano è in ogni caso. Invece, una vera domanda che voglio fargli, a pagina 7, laddove si parla dello spazio che Girolamo dà nel commento a Galati, alle epistole Galati, a Tertulliano. E il professor Duval trova strano che dopo gli elogi fatti di Tertulliano, chiamato vir doctissimus, poi eleganter, eccetera, poi segue invece Origene nella spiegazione dell'incidente di Antiochia, ignorando i latini che interpretavano il fatto in senso letterale, cioè come episodio storicamente avvenuto e non come incidente diplomatico. E qui secondo me c'è una motivazione ben precisa che si deduce anche dal carteggio epistolare tra Girolamo e Agostino, ed è la preoccupazione contro Porfirio. È questo che secondo me lo ha indotto a seguire Origene e non Tertulliano. Quindi non mi sembra che si tratti di una inspiegabile trascuratezza nei riguardi di Tertulliano elogiato, almeno non questo episodio particolare. Qui direi che la spiegazione di Girolamo era quasi obbligata nel senso origeniano, perché aveva da difendere diciamo, l'episodio dalle accuse di Porfirio, che aveva a momenti rappresentato Paolo e Pietro come due che fossero venuti platealmente alle mani. Quand il va parler d'auteur et on va reprendre cette question dans une autre approche. Altri interventi? Professor Perrone. Grazie. togli la cingola. Professor Moreschini. Volevo solo due domande. Prima, la preparazione che mi riallaccia per quello che diceva di Palace, c'è la differenza tra lettera e trattato. Mi pare interessante osservare, solo per aggiungere un particolare, che vedremo proprio in periodo di Nazianzo, sono dei trattati, dunque giustifica non soltanto, dimostra non solo l'aspetto formale, ma questo è interessante, questa tradizione manoscritta, in cui le tre epistole che in Gregorio Nazianzo sono trattati, hanno una tradizione manoscritta che è diversa da quella delle epistole. Questo significa che già trattare l'antichità, l'epoca in cui sono pubblicate queste le opere, già la tradizione manoscritta era differente, cioè quindi le opere ebbero una sorta di stile, le epistole da una parte e le lettere trattate dall'altra. Poi soltanto la manoscritta fu riunita. Quindi già quando la tradizione diversa è una prova in più che diverse le opere stesse, nonostante di dire la tecnica al personaggio. Questo è una cosa. La seconda cosa è Marini, io ho seguito con interesse la sua relazione, e quindi allora mi chiede in conclusione atteggiamenti così però nei confronti di Dario, come un po' attivo, un po' favorevole, un po' contrario, perché, come ha fatto vedere anche di qua, Dario è l'esegeta, ma è troppo difficile anche lui, ha un po' di personale, scorre con il rodo, e può fare un rapporto che lo puoi osservare circa le genesi su Matteo, in Dario e in Gerolamo, con questo giudizio generale di Dario stesso, che cioè è positivo, ma è limitativo nel segno. Forse non ho capito bene la conclusione, qual è l'atteggiamento di Gerolamo. Non direi che l'atteggiamento di Gerolamo è direttamente connesso al giudizio sull'eloquenza o sulla possibilità di Dario. E queste sono indicazioni che troviamo non sono indicazioni che noi troviamo nel commento a Matteo. Le recuperiamo da altri testi, sono epistole. In un'epistola lui ricorda la 20, ricorda anche di aver rinvenuto un piccolo particolare esegetico da Ilario, commentatore di Matteo, che riguarda addirittura l'esplicitazione di Osanna. Osanna significa, quindi, e Gerolamo ricorda questo contributo di Ilario. Quindi non direi che sia questo l'elemento caratterizzante. Non gli interessa, mi sembra, l'eloquenza o l'accessibilità del linguaggio. A me è sembrato di individuare una linea proprio sul piano esegetico, che forse mostra un carattere ondulatorio all'interno del comportamento di Gerolamo. Cioè utilizza e non dichiara molte volte, affianca passi in cui utilizza con tranquillità ad altri passi in cui confuta quasi con maggiore evidenza. E da questo punto di vista mi è sembrato che noi possiamo ricavare una serie di dati che illustrano possibili convergenze, in qualche caso direi che sono delle convergenze decisamente plausibili, verosimili. e quindi ricordava o forse aveva tra le mani il testo ilariano. In altri casi sicuramente ha voluto porre la distanza fra il proprio commento e quello di Ilario. Credo che in questi casi soprattutto sia stata una questione di stampo esegetico, cioè che il motivo fondamentale sul quale articola il proprio dissenso è l'esasperazione di un metodo allegorico. Io ho parlato di questa interpretazione allegorizzante, cioè evidentemente Girolamo è consapevole che in vari casi il buon Ilario ha condotto quasi una forzatura sul testo evangelico e soprattutto è venuto meno a determinati criteri, quale quello della conseguenza, dell'ordo rerum o altro, per cui di fatto Ilario ha perso la connessione delle parti all'interno del Vangelo, cosa che egli cerca di restituire. Scusa Giovanni, vieni. Vieni qua, che ci sente di più. Più alla constatazione di Claudio Moreschini circa l'epistolario di Gregorio Nazianzeno, ecco, vorrei aggiungere una constatazione mia. All'interno della tradizione manoscritta dell'epistolario di Agostino, ad esempio, il carteggio delle 12 o 10 lettere, delle prime 10 o 12 lettere tra Agostino e Gerolamo ha una sua tradizione manoscritta autonoma, e ad esempio l'epistola 166 di Origine Anime Hominis diretta a Gerolamo e anche la 167 di Sentenze a Jacobi Apostoli hanno una tradizione manoscritta autonoma perché sono dei trattati. E bisogna dire anche questo, che nei manoscritti di Gerolamo normalmente non ci sono, almeno nei più antichi. Se ci sono è perché sono entrati nelle collezioni successivamente o molto più tardi. Ecco, ad esempio, si assiste a questo, che più i manoscritti, ecco, sono recenti, più grande e più ampia è la collezione delle lettere, sia in Agostino che in Gerolamo. Scusate questo intervento che è un po'... Sì, appunto. Cioè, interpretanti e... hanno una loro tradizione manoscritta autonoma, che non si evince bene dall'edizione Hilberg, tantomeno dalla Vallassi, ma le cose vanno proprio così. Ecco, cioè, si capisce di più, non so, dal catalogo dei manoscritti di Lambert, ad esempio, ecco. C'è una coscienza del genere letterario diversa. Dico del genere letterario diverso. No, tant'è vero che spesso li definisce liber questi trattati, lui stesso, Girolamo stesso nelle epistolari definisce liber questi trattati, il libro che ho scritto a... Sì, in questo avevano già la benedizione da parte dell'autore, ecco. Altri interventi? Vabbè, allora chiudiamo i lavori di questo pomeriggio e ci aggiorniamo a domani mattina alle ore 9:30.